Thank you.

commosso. Tante pene! È vero, senza questo pietoso solitario ne smento, forse piangeresti, o donna, per i tuoi miracolci ad Ascalona. Visitammo uniti sulla sacra tomba, giurammo d'esserne campioni e vivere Oh, Ma lei dov'è? L'elmo! Ebbene, parlatemi, non c'è più! Oh! Thank you. oratorio sui stampe, in cui m'è dato a corvine il mio petto. Per order re Riccardo, al culo e sponda le gesta in Palestina. Thank you. Thank you. Destra, verso inaudito, l'arma sprigina. Thank you. gravati al cuore, ma fatemi, ma fatemi la vela schiacci il sangue, che la di tu, che la sangue sarà più forte in me. Lasciatemi, lasciatemi, lasciatemi, Vieni a prestare Oh,

Thank you. siamo felici, ed io all'inferno il cuore mi traria l'infedele, affiorirla accordate asilo al viandante. Ben giunto lo straniero al tetto mio. O che mai? Michele! Yeah. Amen.